cerca una forma di disciplina, assomiglia all'ingenuità, alla saggezza, ma non ora, non qui, non ora, non qui, no, non ora, non qui, no, non ora, non qui. Ecco che muove scretola di daga, ecco che muove scretola di daga. Uno si dichiara indipendente e se ne va, uno si raccoglie nella propria intimità, l'ultimo proclama una totale estraneità. Sguardo eretto all'avvenire, fisso al sole nascente, da dirato all'imbrunire. Tu non cantavi mai la sera, non cantavi mai. Tu non cantavi mai la sera, non cantavi mai. Mai la sera.